Buonasera, sono l'avvocato Mario Sabatino. Oggi è il 15 di marzo del 2011 e vi parlerò di una questione molto attuale in questo periodo dell'anno. Si avvicina infatti la bella stagione e i condomini deliberano di eseguire le opere di manutenzione straordinaria delle facciate. Talvolta questi interventi richiedono di accedere alla proprietà esclusiva di uno dei condomini e di installarvi dei ponteggi oppure dei macchinari necessari alla realizzazione dei lavori. Si viene a creare così un delicato conflitto tra contrastanti interessi che spesso sfocia in contenzioso. Questo conflitto si riverbera inoltre sul rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice, la quale è costretta a modificare i programmi ed a ritardare la conclusione delle opere. Infatti una cosa è certa, il condominio e gli incaricati dell'esecuzione delle opere non possono entrare nella proprietà esclusiva di un condomino con la forza e senza un ordine del giudice. Quindi ecco il fatto. Un condominio chiede ad un condomino di poter accedere alla sua proprietà esclusiva per installare un ponteggio per il periodo necessario all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla facciata dell'edificio. Il condomino si rifiuta di concedere l'autorizzazione perché è preoccupato degli eventuali danni alla sua proprietà e della durata eccessiva dei lavori. La soluzione. Ai sensi dell'articolo 843 del Codice Civile, qualora si rendano necessarie riparazioni nelle parti comuni dell'edificio in condominio che comportino l'accesso alla proprietà esclusiva di uno dei condomini e l'installazione di ponteggi, il condomino interessato, pur essendo tenuto a concedere il passaggio con persone e materiali agli incaricati dell'esecuzione delle opere di manutenzione, ha diritto a ricevere un'indennità adeguata da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il condominio di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita. Mentre è ovvio che l'accesso debba essere necessariamente accompagnato dal deposito di cose, seppur momentaneo, qualora detto deposito dovesse essere abusivo, cioè dovesse rivelarsi abusivo, il condominio sarebbe obbligato al risarcimento dei danni in virtù del principio generale posto dall'articolo 2043. Quindi, uso della cosa di proprietà esclusiva, quindi della proprietà di proprietà esclusiva del condomino, deve essere finalizzato all'attività da svolgere, quindi montaggio e smontaggio dei ponteggi, deposito momentaneo di materiali e di mezzi finalizzati al rifacimento della facciata. Nulla di più. Se si esce da questo confine, da questo recinto, si entra nell'area dell'illecito e quindi chi commette l'illecito è tenuto a risarcire il danno. L'obbligo imposto dall'articolo 843, unitamente alla determinazione dell'indennità, può essere disciplinato da apposite convenzioni concluse tra i proprietari interessati in base a quello che è il principio, uno dei principi fondamentali, cioè quello della libera autonomia contrattuale. Le convenzioni anzidette possono, anzi, a mio parere, devono prevedere le modalità di accesso e tutte le garanzie a tutela del condomino e del condominio. Quindi, impianto per la messa in sicurezza dei ponteggi, allarme dei ponteggi, eventuali polizze assicurative per i danni a cose e persone e anche contro il furto. Perché è chiaro che l'installazione di un ponteggio rappresenta un pericolo anche per eventuali furti che potrebbero verificarsi. In tema vi segnalo una sentenza della Corte di Appello di Milano, la sezione seconda, la numero 1071 del 18 aprile del 2007. In buona sostanza, vi invito a visitare il sito all'indirizzo www.studiosabatino.eu per maggiori dettagli. Questa sentenza riforma una sentenza del Tribunale di primo grado, del Tribunale di Como, la quale non aveva riconosciuto l'indennità al condomino, poiché il condomino non aveva fornito, a parere del giudice di prime cure, alcun riscontro in ordine ai danni subiti. Bene, interessante leggere questa sentenza, o comunque la parte della motivazione di questa sentenza che ho riportato nel sito, perché si può capire qual è il meccanismo interpretativo che ha portato il giudice di appello alla determinazione dell'indennità e anche alla esclusione degli ulteriori danni richiesti dal convenuto, sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali, poiché questi non aveva convenuto, cioè il condomino, poiché il condomino non aveva fornito la prova degli stessi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Buonasera.